9 in punto, la versione di Oscar. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. Buongiorno cari ascoltatori, buon inizio settimana, questo lunedì 10 di settembre. Oscar Giannino augura un buon Santa Pulcheria, cioè quelle che si chiamano Pulcra, in realtà è la trasposizione latina. Chi ha un nome così oggi lo festeggia secondo il calendario liturgico, e quindi auguri alle pulcre, alle belle, ma auguri a tutte, auguri anche a noi che siamo brutti o per primo il campione da un certo punto di vista. Allora, lo spread sta a 360, le pressioni su Radio 24 perché si cambino le sigle della trasmissione di Giannino, accusate di essere porta sfiga, sono sempre più elevate. E naturalmente io invece comincio la settimana dicendo che anche il meccanismo salva spread con cui Mario Draghi ha fatto più lui da solo con la sua BCE dell'europolitica, che per 2 anni ha diluito, dilazionato e creato interventi solo inadeguati al giudizio del mercato per dare un'idea che ci sia un euro coeso, ebbene anche il meccanismo di intervento deliberato il 6 di settembre dalla BCE sui mercati è stato immediatamente portato al giudizio della Corte Costituzionale da un parlamentare tedesco che si chiama Peter Gauweiler ed è, appartiene alla CSU, quindi un bavarese democristiano, un euroscettico ben noto, e ha immediatamente fatto un esposto alla Corte di Karlsruhe, il cui giudizio siamo in attesa per il 12 settembre, e direi che su questo, quindi, segnale contraddittorio del fatto che in Europa tanti ancora non sono così convinti di questo meccanismo, mentre in Italia tutti vogliono dire i partiti Monti, Monti, resta tu, gli italiani non devono votare, non deve contare nulla il loro voto, tutta una corsa, adesso è Casini che è diventato... Casini cosa pensa? Voi lo sapete se vuole abbattere il debito pubblico con gli attivi patrimoniali? Io non lo so. È diventato garante di che cosa? Ma evidentemente della paura, di un punto di riferimento sicuro rispetto a quello degli altri. Però forse il voto degli italiani conterà, voi che dite? Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Ma perché? E insomma, devo ammetterlo, questo dibattito in cui i partiti, il centrodestra è spadito, sono in attesa di capire, Berlusconi adesso pare che sia in Kenya e tutti muti, tutti zitti, questi signori che per tanti anni si dipingevano come i sicuri detentori del consenso degli italiani sono virtualmente spariti da un orizzonte, quello della politica, a cui mi dispiace, è un giudizio duro, evidentemente per primi ritengono di non appartenervi, perché altrimenti sarebbe impensabile. Come alla morte del loro leader, nessuno di loro biascichi parole di un qualche interesse. Sono duro con Berlusconiani. Altro che, sono durissimo con la loro mancanza di senso di che cosa sia la politica, distinta dalla fedeltà personale. Nella centrosinistra invece c'è un dibattito. C'è un dibattito vero, c'è un dibattito forte, c'è Renzi, il sindaco di Firenze, che non piace di sicuro a Bersani, non piace a chi si identifica nella segreteria, e che però, come testimoniano oggi per esempio l'atlante politico che Repubblica pagina Pubblica pagina 7, e beh, è addirittura subito dopo Monti nella graduatoria del gradimento degli italiani. Nel settembre 2012 scrive Repubblica pagina 7, dopo Monti che avrebbe un gradimento del 55,2% e che ottiene il consenso degli italiani a differenza del governo dei tecnici che capeggia, quindi Monti una figura di riferimento di sicurezza per così dire degli italiani, subito dopo viene appunto Renzi col 42,5%, poi viene Montezemolo titolare di un apprezzabilissimo 39,8%, poi viene Passera col 36,6%, la Bonino, pensata, la Bonino, ancora così alta, col 36,2, onore a Emma Bonino, la Fornero, Bersani, dopo anche la Fornero, solo col 31,8%, poi c'è Di Pietro col 28,9, Casini col 28,9, Alfano col 27,8, Vendola col 27,2 e così via. E Renzi, così in alto, per così dire, testimonia del consenso che, toccando i temi del rinnovamento della politica all'interno del PD, innanzitutto sulla leadership del PD, Renzi è in grado di ottenere nel consenso degli italiani. È un po', devo dire, singolare questo dibattito del Monti bis che agiterebbe i PD, PDL. C'è chi sostiene che il voto degli italiani dovrebbe essere praticamente privo di un impatto concreto. Credo che siano tutti cotti e conti senza l'oste, perché il voto delle proteste sia molto elevato. E ancora parlando di PD, ieri Bersani, intervenendo a Reggio Emilia alla chiusura della festa del PD, ha lanciato un guanto di sfida proprio per la premiership. A differenza di Casini, che dice Monti c'è, Monti resta, qualunque cosa questo significhi, perché tanto di programma nessuno ne parla, cosa che mi lascia molto singolare, singolarmente colpito nei sostenitori di Monti. È una specie di passaporto per la sopravvivenza del vecchio personale politico, evidentemente, da parte di Casini. Bersani invece ha lanciato una sfida e ha detto noi siamo pronti, e quando dice noi siamo pronti è un messaggio per dire, come primo partito, se vinciamo noi le elezioni come graduatoria per il primo partito, qualunque cosa questo significa in termini di maggioranza, perché la legge elettorale non l'hanno ancora fatta, però il PD rivendica a quel punto di essere il perno di una alleanza politica. E su alcuni temi, come quelli della morale pubblica, per così dire, sui gay, eccetera, eccetera, Bersani ha fatto aperture a chi nel partito sostiene che la leadership di Pierluigi Bersani sia troppo conservatrice. Ha detto nessuna ragione perché si neghi loro i diritti alle unioni civili. E poi una parte del suo discorso è stata rivolta a rassicurare quel pezzo di partito che dice tu non sei abbastanza di sinistra, perché per esempio in termini di riforma fiscale Bersani ha detto il leader del PD, la tassazione va spostata su evasione e rendite. In ogni caso, proprio del dibattito del PD ci occuperemo anche oggi, perché mi ha molto colpito su 7, il settimanale del Corriere della Sera, un'intervista a un esponente del PD, che è un esponente con una storia propria, per così dire. Io non sono mai riuscito a pronunciare il termine di questo esponente del PD come se fosse un appartenente alla leadership vera del partito. È una persona che rivendica la sua storia, è un medico, si è anche candidato alle primarie sui suoi temi. A nessuno, a me per primo, verrebbe in mente di associarlo a un esponente della casta. Si batte a volte su temi come i diritti civili, appunto, la bioetica, i gay, e di solito parla con una lingua tagliente, diciamo, che non è propria di coloro che appartengono da lungo tempo almeno alla leadership dei partiti, perché nel tempo pare che appartenere alla leadership di un partito ottunda la tua capacità di usare la lingua in maniera tagliente. Sto parlando di Ignazio Marino, che è qui con noi stamane e che saluto e ringrazio. Buongiorno Ignazio Marino. Buongiorno Oscar Giannino, buongiorno ai nostri ascoltatori e grazie davvero per l'invito. No, l'intervista che mi ha indotto a Vittorio Zincone, che mi ha indotto a chiamarla, è un'intervista in cui nel ribadire alcune delle critiche rispetto alle quali poi Bersani, poi le chiedo subito, ha dato una risposta ieri, perché è evidente che sui temi etici o della parificazione dei diritti civili a seconda delle questioni di preferenza sessuale, in realtà Bersani dava una risposta proprio a chi lo incalza con domande come le sue, Ignazio Marino. Però la realtà è che era proprio il segno politico di questa intervista che mi ha colpito, perché il titolo, che secondo me sintetizzava bene l'intervista di Ignazio Marino, era il PD lasci perdere Casini e si allei con Di Pietro, perché io penso che chi vota Italia dei Valori probabilmente la pensa come me sulla laicità dello Stato e anche sul Movimento 5 Stelle. Invece di sparare a palle incatenate contro Grillo, diceva Ignazio Marino, secondo me su molti temi c'è più sintonia con loro nel nostro elettorato di quanto non pensino i leader preoccupati. È un po' questo davvero il suo giudizio politico? Ma forse io lo posso spiegare meglio partendo dalle sue stesse parole di questa mattina, che mi hanno molto colpito, perché le trovo davvero in assonanza con il mio pensiero, e cioè il fatto che in questo momento da parte di molti leader, e non voglio offendere nessuno, ma è un esame, una fotografia della realtà, da molti leader politici che erano leader politici anche nel secolo scorso, lo sforzo che viene fatto non è quello di definire un programma per l'Italia, per il lavoro, per il welfare, per la sanità, per la scuola pubblica, ma di definire un programma per salvare se stessi all'interno delle istituzioni da qua al 2018. Sono forse più brusco di lei, ma direi che molti di questi leaders pensano che anche per motivi anagrafici nel 2018 dovranno uscire di scena, e allora un po' come il libro di Terzani, volendo fare un ultimo giro di giostra, devono inventare degli schemi all'interno dei quali possono salvarsi. Ecco perché io invece penso che noi non dobbiamo guardare a salvare chi ha fatto il ministro o chi era nelle istituzioni negli anni 90, noi dobbiamo guardare a modernizzare il paese. E allora io penso, ma su laicità dello Stato, su investimenti nel settore della ricerca, della scuola pubblica, della sanità pubblica, sulla diminuzione degli investimenti militari e quindi taglio drastico, ad esempio eliminare quei cacciabombardieri F-35 che costano 15 miliardi e investire in innovazione, ricerca e sviluppo. Il Nobel italiano Carlo Rubbia ha affermato che in Italia abbiamo l'equivalente di un pozzo di petrolio ogni metro quadrato, e noi invece di investire nell'energia solare spediamo Carlo Rubbia all'estero e gli suggeriamo di emigrare, andare a fare ricerca in Spagna e in Germania. Io credo che gli elettorati, non i leaders, non i leaders che devono che hanno un obiettivo legittimo, si capisce dal loro punto di vista, di conservare se stessi, no? Di avere una posizione, una poltrona dopo l'aprile 2013, ma gli elettorati dell'Italia dei Valori, l'elettorato anche del Movimento 5 Stelle, che vogliono modernizzare il paese, ma perché noi li dobbiamo prendere a schiaffoni e non dobbiamo invece definire, invece delle alleanze che salvino i leaders, dei programmi che salvino il paese? Io credo che, ad esempio, non ho sentito nessuno in questi giorni parlare, ad esempio, di che cosa dovrebbe fare lo Stato rispetto agli imprenditori che vantano dei crediti, alle aziende che vantano dei crediti nei confronti dello Stato. Non si può continuare a chiedere alle persone, ai professionisti, alle imprese di pagare le tasse, ma di non essere pagati quando presentano una fattura per del lavoro svolto nei confronti di una pubblica amministrazione. Io credo, insomma, che dovremmo abbandonare sondaggi, statistiche, preferenze, alleanze e parlare delle questioni concrete. Senta, perché e su quali temi pensa di dover spendere buone parole come quelle che pronuncia per Grillo? Oppure sono per l'elettorato di Grillo e che per chi fino a questo momento ha votato o dichiara di votare o comunque si indirizza verso il Movimento 5 Stelle distinti da Grillo, o di che cosa si tratta? Perché, insomma, Bersani, il giudizio generale è che abbia un po' fatto un autogol parlando di Grillo dopo tanta attesa in cui in realtà si risparmiavano toni duri come il fascista del web. Lei che pensa? Io penso che è importante rivolgersi e parlare con contenuti concreti anche all'elettorato che, secondo me, con un segnale di forte protesta nei confronti dei partiti, dei partiti classici, quelli che sono in questo momento all'interno del Parlamento, ha premiato con il proprio voto il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo. Io sono convinto che se il Partito Democratico dirà dei sì e dei no molto chiari in temi di politica economica, di lavoro, di scuola pubblica, di sanità pubblica, di banda larga, di modernizzazione delle infrastrutture del nostro paese, io credo che potrà attrarre molti voti di persone che scontente, disgustate, diciamolo chiaramente, da una politica che ha dato molti, molti motivi all'interno di scandali che si sono ripetuti nei vari partiti, motivi di disgusto. Ecco, se invece daremo un segnale non sulle alleanze ma sui contenuti, allora io credo che le elezioni, come lei giustamente ha detto, serviranno a definire il progetto, il programma e anche la leadership nella primavera del 2013. Vorrei però aggiungere un altro punto che secondo me lei ha toccato molto bene, ed è la questione Renzi-Bersani. Io credo davvero che questo lei dice nelle interviste, io non credo che ci saranno le primarie. Io penso che ci sia, ma insomma non è che stia svelando un segreto chiuso in cassaforte. Molti dei leaders storici del Partito Democratico, sentendosi più garantiti dalla presenza, e anche questo è ovvio, di una figura come Pierluigi Bersani, con cui hanno percorso molte tappe della loro vita politica, preferirebbero evitarle, perché evidentemente ci mette a rischio il fatto che si resti in carovana, per così dire. Insomma, se ci fossero le primarie e se ci fosse una vittoria di Matteo Renzi, è chiaro che Matteo Renzi dovrebbe poi mantenere fede alle proprie parole. E quindi lasciarli a casa, e quindi applicare il rinnovamento di cui tutti parlano, poi in realtà c'è sempre un'eccezione. Ma questo rinnovamento però lo può applicare, io, e questo è il punto su cui ho sollecitato e continuerò a sollecitare Pierluigi Bersani, io penso che ci siano delle figure davvero di grande cultura politica e preparazione all'interno del Partito Democratico che possono essere delle risorse per il partito, ma soprattutto per il paese, ma non è necessario che abbiano un seggio in Parlamento, e Bersani ha uno strumento straordinario, quello di dire: ma signori, noi applichiamo lo statuto del Partito Democratico che dice che dopo tre legislature non ci si ricandida più, e se Bersani pronuncerà queste parole con forza, io credo che molto del messaggio di Matteo Renzi diventerà evanescente, perché allora finalmente se ci sarà un confronto dovrà essere non più sul giovani vecchi, ma che cosa facciamo per la scuola pubblica? Vogliamo dare risorse alla ricerca? Vogliamo una sanità che invece di impoverirsi sempre di più abbia dei pronto soccorsi efficienti? Vogliamo investire in innovazione, ricerca e sviluppo come fanno gli altri paesi del nord Europa? Questi dovranno diventare i temi, non quanti anni ho. Però Bersani ieri questi accenni al rinnovamento, al limite statutario, i tre mandati e così via, parlando a Reggio Emilia, obiettivamente non li ha usati. Quindi mi pare che Bersani rassicuri il vasto corpo, il blocco apicale della dirigenza del partito, eccetera eccetera. Da questo punto di vista Renzi ha proprio toccato un punto scoperto, perché Bersani su questo non riesce a dirgli faremo così e cosa, almeno fino a questo momento. Non so lei che pensa. Io credo che lo farà, perché soprattutto, ripeto, penso che ci sia una spinta molto forte ad evitare in qualunque modo il confronto delle primarie, ma se le primarie ci saranno, credo che Bersani sarà davvero costretto a dire che il rinnovamento lo esegue lui, perché se non dirà questo, lei lo sa, ci stiamo ponendo delle domande retoriche, perché lei, che è un attentissimo osservatore, lo sa meglio di me. In questo momento purtroppo, io lo dico perché così da chirurgo vorrei più confronto su temi concreti, quelli che ho citato fino ad adesso, però purtroppo in questo momento c'è talmente un sentimento forte, antipartitico e un odio verso coloro che sono stati nei palazzi del potere per tanti anni, che basta che qualcuno dica io li mando tutti via, che quello slogan attragga tantissimo consenso, però, anche se poi magari non c'è il contenuto dietro. Non lo so se non ci sia il contenuto, io per molti versi, quando capisco che la debacle del governo di coalizioni politiche ha obbligato l'Italia, per non essere cacciata dal nuovo delle nazioni civili, a un governo tecnico non eletto, è un po', poi gli italiani non è che siano qualunquisti loro, bravo chi soffia sul fuoco, sì, però la condizione di fatto è che i partiti, per quello che hanno fatto con le loro coalizioni di 18 anni, secondo me non meritano poi altro giudizio dagli italiani, ma in questo poi altra cosa è dire basta cacciare la gente. No, il problema, e su questo sono d'accordo con lei, dovrebbe essere fateci capire per fare cosa. E insomma, non so bene come. Ma un'ultima domanda: ma lei davvero, quando opera, ho letto nell'intervista una cosa che mi ha riempito di gioia da una parte, un po' preoccupata dall'altra, ma davvero quando opera sente Question 67 and 65 di Chicago? Ascolto sia i Chicago che i Genesis e mi rendo conto che questo mi può allontanare dai nostri. Io vengo a farmi operare da lei, oltretutto se ci sono i Genesis, non so i colleghi cosa pensino, ecco, però. No, ormai sono abituati da tanti anni e devo dire che quando in alcune occasioni, quando ho cambiato sale operatorie, mi hanno fatto trovare questi CD che ormai sono oggetto di antiquariato. Voglio dire, sì, testimoniano la generazione a cui apparteniamo, ma del resto, voglio dire, sono anche la testimonianza di una vita pienamente vissuta. Mi piace il fatto che un chirurgo che si impegna in politica con lo spirito con cui lo fa lei ami anche dire appartengo a una generazione tale per cui, insomma, nel rispetto del paziente e senza dimenticare la deontologia, sento i Genesis mentre opero. Ignazio Marino, grazie a Michele Salvati. Buongiorno a tutti. Allora, Salvati ricordava anche lui in una recente intervista, lui uno di quelli che, insomma, un po' di annetto fa, qualche annetto fa, pubblicava articoli prima della nascita del PD, ne ricorda uno che era del 1993, in questi articoli Michele Salvati sosteneva con grande fiducia la possibilità, la necessità, anzi, che dal basso ci fosse una rottura di continuità molto forte rispetto alle tradizioni precedenti della sinistra, una rifondazione dal basso con una convergenza di culture diverse e anche con un apporto liberal-democratico, quindi non solo con le culture ex comuniste, ex socialiste e cattoliche. E nel tirare il bilancio di questi due decenni, Michele Salvati, una persona molto onesta, secondo me, dice: beh, io mi ero illuso, un'impronta un po' troppo intellettuale. La realtà è che chi mi sparava all'epoca addosso su questo tentativo di rifondazione, di discontinuità molto profonda, e lo stesso Salvati nell'intervista fa i nomi di D'Alema e Marini, beh, alla fine hanno vinto loro, perché loro sono ancora là e di quel progetto assai poco è rimasto. È una sintesi fedele questa che ho fatto del suo pensiero? Sì. Lievemente polemica, ma sostanzialmente fedele, sì. La speranza era che nel grande dibattito che si aprì nella sinistra democratica dopo la debacle del 2001, in cui vinse Berlusconi e si apprestava a vincere anche poi in seguito, no, la risposta potesse essere una risposta dal basso, una risposta che desse origine a un partito diverso, un partito con una base anche ideologica più larga, non soltanto di natura, diciamo, cattolica di sinistra e comunista, riformista e socialista, speravo, cosa tra l'altro che non si è affatto realizzata. Sì. E quindi, perché i socialisti sono rimasti largamente fuori da questo progetto, e basta leggere adesso bellissimi scritti di Luciano Cafagna che sono stati ripubblicati sulla delusione del processo che avrebbe dovuto incorporare i socialisti in questo progetto e non avvenne. In ogni caso pensavo a una rifondazione più larga che in realtà mettesse queste antiche culture politiche all'interno di una visione liberal-democratica più vasta. E questo speravo, questo non si è realizzato, questo mi procurò anche alcune, diciamo, non simpatie o antipatie, perché quando dicevo papale papale in un lungo pezzo che Giuliano Ferraga mi pubblicò nel 2003 sul Foglio, che le persone che non credevano in questo progetto dovessero ritirarsi, parlavano di Partito Democratico, ma poi in realtà quel che avevano in mente era una cosa diversa, e per quello che facevo i nomi di due persone che peraltro stimo, sono due eccellenti politici come D'Alema e Marini, e vabbè, questi si ritirassero e lasciassero la palla, diciamo, ai nuovi. Di nuovo sentivo dall'intervista prima questo problema di novità, questa sarebbe stata la grande discontinuità. Questo non è avvenuto, sono grosso modo il Partito Democratico è diventato una, non una fusione, un incollaggio tra due ceti politici della Prima Repubblica, sto parlando a livello di leadership, perché a livello invece di quadri intermedi e a livello, diciamo, di seguito popolare le cose sono andate diversamente, però incollaggio, le dicevo, che ogni tanto si scolla tra un ceto politico di origine, diciamo, democristiana di sinistra e uno di origine ex comunista, e così si è andati avanti, voglio dire, in maniera decorosa, tutto considerato, lo dico soggettivamente, questo è un partito che io ho sempre votato, ma da persona raziocinante, per cui voto il meno peggio, non voto il meglio. Oh, lei dice, in realtà poi c'è un problema che deriva dall'incertezza delle scelte, perché se si va a vedere il PD oggi c'ha un forte problema, per così dire, a sinistra, tra il voto di protesta che va verso Grillo, il problema, la ferita aperta nei confronti dell'età dei valori di Di Pietro, da una parte, e dall'altra però non è riuscito neanche a spiegare bene al corpo dei suoi militanti, dei suoi elettori, il senso profondo del sostegno a Monti. Oggi Bersani è costretto, chiudendo Reggio Emilia, a dire: Monti va bene, non si negano i meriti, ma naturalmente arriviamo noi adesso. È come a dire: l'orizzonte cambia, è stata una tappa di una via crucis necessaria per liberarsi di Berlusconi, però esiste un ampio margine di manovra per fare politiche socialdemocratiche o di sinistra col bilancio pubblico, eccetera eccetera. Allora, avere un problema aperto a sinistra e avere contemporaneamente un problema aperto su una base più, come vogliamo dire, liberal democratica, moderata, realista sul quadro europeo, che resta secondo me molto preoccupante, niente affatto segnato dalla possibilità di considerare che abbiamo i problemi alle spalle, adesso ci ha salvato Mario Draghi, io non la penso affatto così, non è un problema che ci descrive ancora oggi, a distanza di tanti anni dalla nascita del PD, all'ennesima leadership del suo personaggio storico, che in realtà una scelta coerente all'indirizzo socialdemocratico europeo ancora non c'è? Beh, io sono d'accordo con questa analisi. In realtà il problema è più complicato di come lei l'ha descritto adesso, perché non si tratta soltanto di una, diciamo, di una scelta decisa e dura, congruente con la situazione, a mio avviso, drammatica. Non so se ha visto, c'era anche un mio articolo di ieri sul Corriere della Sera, in cui in realtà sottolineavo che la nostra alternativa è tra asfissia, cioè la situazione attuale nella quale noi siamo, e un'eventuale catastrofe. È aperto ancora la possibilità di un esito catastrofico, credo meno probabile dell'altro, ma in ogni caso, quindi la scelta non è soltanto, diciamo, che anche l'asfissia europeo, da compressione della domanda interna, non è una bella prospettiva. Che trova il Partito Democratico, ce n'è una che allora nel 2003 io non prevedevo, si sarebbe rivelata così formidabile, ed è quella del crollo totale. C'era già allora una scarsa fiducia nei partiti politici, però ancora si sperava che la Seconda Repubblica, consentendo la designazione diretta o quasi diretta del capo del governo, avrebbe potuto provvedere in maniera diversa. No, invece no. Cioè, la sfiducia nei politici, che era quella che aveva generato la rivolta del 92-94, voglio dire, la crisi del sistema politico della Prima Repubblica, continua anche nella Seconda Repubblica, continua e anzi per molti aspetti si aggrava. Oggi non c'è nessun paese in Europa che abbia degli indici di sfiducia nei confronti dei suoi politici più alto di quello italiano, e questa è una cosa straordinariamente preoccupante. Allora, questo allora, quando facevo la mia battaglia per il Partito Democratico, questo non si intravedeva, adesso è evidente, quindi il Partito Democratico è esposto, diciamo, sia sul lato della sua incapacità di fare una scelta, diciamo, lo dico in senso generico, sostanzialmente per l'Europa, per un nuovo partito, sia pure di sinistra, ma che combatta per un disegno europeo, sia è scoperto, diciamo, sul lato, chiamiamolo giustizialista, cioè, spiego cosa voglio dire, la battaglia che il Partito Democratico insieme a tutte le altre forze di sinistra fece nella, a partire dalla legislatura del 2001, ma ancora nella legislatura del 2006 e poi del 2008, fu una battaglia di indotta dal sistema elettorale, per cui bisogna fare delle grandi coalizioni per poter vincere, di raccattare tutti i possibili anti-berlusconiani esistenti sulla piazza del paese, voglio dire. E questo lo fece, per cui grosso, un insieme di persone che con la sinistra tradizionale, con la sinistra di classe, se vogliamo chiamarla così, poco avevano a che fare e non erano affatto di sinistra, come i vari Travaglio, eccetera, lo stesso Di Pietro, eccetera, furono raccolti tutti insieme nel carro anti-berlusconiano. E questa cosa qui ha portato all'interno, diciamo, della coalizione, della potenziale coalizione di sinistra, un insieme di umori, di atteggiamenti, no, che oggi la condizionano, quindi diciamo staccarsi dai Travaglio e dai Di Pietro, tanto per intenderci, è un'operazione dura, e oltretutto non solo è avvenuto così, ma la cosa è andata avanti ancora, la sfiducia è proceduta in maniera tale per cui al limite se il Fatto Quotidiano, Di Pietro eccetera si riducono, trovano sempre qualcun altro che fa una sorta, quello che si chiama una surenchère, sostanzialmente un qualcosa di ancora più antipartitico di loro. E questo è il Movimento 5 Stelle. Questo fa sì che, diciamo, no, crea una situazione, no, in cui il Partito Democratico è esposto sul lato della sinistra vera, sinistra di classe, eccetera, è esposto sul lato della sinistra, chiamiamola così, o comunque degli atteggiamenti antipartitici e giustizialisti, e non sa quali pesci pigliare. Si barcamena all'interno di queste scelte. In parte dovute tutto a un passato, in un certo senso non fa anche colpa, in particolare a Bersani, voglio dire. Bersani è un grande barcamenatore, un senso di organizzazione, di continuità, insomma è un salvatore di ditte. È un salvatore di ditte. Che la ditta meriti di essere salvata. Ecco appunto, ma lei sulle primarie la pensa come Marino, non ci saranno, e su Renzi come la pensa? Non ci saranno? Non ci saranno secondo lei, come dice Marino, e comunque su Renzi come la pensa? Guardi, lo dico con grande sincerità, voglio dire, un po', io non so se le primarie ci saranno e questo dipenderà dal sistema, perché ha perfettamente ragione Prodi, no? Difficile fare le primarie all'interno di un partito, perché altrimenti le primarie diventano un congresso, è un modo di scegliere il leader, e allora all'interno dei partiti di tradizione europea e che combattono in un sistema proporzionale le primarie non ci sono, perché si fanno i congressi, si sceglie il leader all'interno dei congressi, però ben vengono anche in questa situazione, voglio dire, sapendo che non sono primarie all'americana, che le primarie lì sono per scegliere lo sfidante in una tensione a due, no? Cosa che ovviamente non sarà così, non sarà così, il leader che verrà designato è da tutto un processo di primarie dovrà poi mediare in Parlamento insieme con gli altri. Se si ritorna alla prima repubblica, voglio dire che cosa servono le primarie, quindi se ci saranno primarie non lo so, no? Nel caso ci fosse, non voglio sottrarmi a questa domanda, io tutto considerato, se rimangono le candidature quelle che sono adesso, personalmente, diciamo nello spirito della mia militanza per il Partito Democratico, voterei Renzi, ma più nello spirito di dare un calcio alla radio quando non funziona. Oh, non so se rende, capisco, l'idea. No, rende l'idea, perché è esattamente una metafora. Non è che dice lo sposo con la convinzione di aver sentito da lui delle ricette. Non so quali sono le sue idee, esatto, idem. Su tutti i problemi importanti di questo paese, idem. Non ne ho un'idea, voglio dire. Però, voglio dire, ho visto che è una persona, diciamo, più vicina all'orizzonte liberal democratico, esatto, al quale mi ispiro io, e faccia conto, è giovane, dinamico, ha avuto coraggio in passato. Ha avuto coraggio una persona in passato. Che nella sua lotta per diventare il sindaco di Firenze ha dimostrato delle doti che non lo rendono un polo di batteria. Ecco, cioè, esatto. Una persona succube, appunto, a varie cordate, cioè ha agito con forza, con coraggio, per sfidare una di quelle che erano delle più poderose, poderoso blocco di potere ereditario di una grande storia di radicamento, chiamiamolo così, senza entrare nel merito poi di alcune delle figure che gli vennero contrapposte, che avevano anche problemi rispetto a scandali della città, perché poi il potere a volte, come noto, corrompe, e quando è un potere assoluto corrompe in maniera assoluta. Io devo dire che nel ringraziare Michele Salvati sono d'accordo anche in questo suo ultimo giudizio. Anch'io Renzi non so le sue risposte, però mi piace il fatto che a sinistra un Renzi ci sia, ciò che nella desolante questione di asservimento personale del centrodestra al PDL nessuno si è trovato di analogo, e questo descrive perché il PDL sia un altro anche per questo, per quest'altro motivo, una delle pagine purtroppo di fallimento più totale della storia politica di questo paese. Chissà se i suoi elettori questo lo capiranno e a chi a quel punto daranno i loro consensi. Iniziamo subito con gli ascoltatori, cominciamo con Antonio che ci chiama da Ferrara. Prego Antonio. Buongiorno a lei, dottor Giannini, e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, la mia opinione è che il signor Bersani non è in grado di rinnovarsi per niente. Bene venga un bel sciocco politico, che così il nuovo che avanza, cioè perlomeno non hanno, diciamo così, quel radicamento al peggio. Ben venga Grillo, ben venga Renzi, ben venga magari anche lei, dottor Giannini, se ha idea di fare qualcosa per il nostro paese, ma tutto il resto non conta nulla, quindi loro ci porteranno sempre alla deriva. Poi per quanto riguarda il debito, se noi non incominciamo a togliere il debito, parliamo di niente. Questo sono d'accordo anch'io, che poi tutto il resto sono sfumature, però se non vi dicono come si abbatte il debito pubblico in maniera credibile, diciamo che stiamo girando il camper l'aia. Giorgio da Modena, prego Giorgio. Buongiorno Giannino, io sono fresco da Chianciano, non sono assolutamente fresco da una convention autoreferenziale per il mantenimento del vecchio partito, cioè dell'UDC. Ho visto novità, ho visto persone nuove, ho visto giovani, ho visto la voglia di creare una realtà che si chiama Italia, Lista Italia, Agenda Monti, ma nell'interesse del paese vero. E quindi la ringrazio per l'assist. Chi raccoglie la delusione del PDL? La Lista Italia, l'Agenda Monti, quello che ho visto ieri a Chianciano, credo che sia un ottimo contenitore per questa delusione degli elettori del PDL, ai quali faccio l'invito: venite con noi a costruire questa nuova realtà importante, moderata, direi anche aperta a laici e cattolici, con una forte però identità nei valori che comunque l'UDC ha tenuto fermo dal 2008 ad oggi senza aver nulla in cambio. Questo Giorgio, è un proclama, infatti ti dico che ne parleremo, perché siccome io non so che cosa l'UDC pensi dell'abbattimento del debito pubblico, della riduzione del perimetro dello Stato, dal mio punto di vista, se resta la vecchia DC, non può interessare chi ha a cuore risposte radicali. Se voi avrete la forza e il coraggio di andare avanti, cioè di dire non siamo più l'UDC e non facciamo dei vecchi democristiani, di cui è pieno quel partito, motivo di continuità, ma fate discontinuità vera, cioè vi sedete e davvero parlate, finché si tratta di arruolare leader di grande nome, penso che sia una buona operazione, ma per l'UDC questa è un'altra cosa rispetto a mettere in piedi un paese che di discontinuità programmatica di persone ha molto bisogno. Sbaglierò, però io mi limito ad ascoltare gli italiani. Mario da Roma, prego Mario. Buongiorno a tutti, Giannino, la solidarietà per l'incidente dei grazie. Va detta. Comunque io volevo soltanto dire che su Renzi personalmente sospendo il giudizio, non so ancora di che bestia si tratti, ma allo stato dei fatti devo dire che sembra uno sfascista pro domo sua, perché io non so nulla di quello che vuole fare Renzi e credo che sia un altro candidato, come è stato Berlusconi, frutto di sondaggi, di interventi televisivi piuttosto vuoti e quindi non questa concezione, di questa concezione degli italiani come soltanto votanti e non più come bestie politiche che si possono rappresentare direttamente. Pensante su proposte. Grazie Mario, mi scuso con Giulio da Roma, non ce la facciamo in tempo perché tra pochi secondi mi tagliano, siamo pieni di pubblicità, ma soprattutto di promo. Senti 3, 2, 24, appuntamento a domani.